Ciao, sono Daniele Battisti, e ho 43 anni, agricoltore di primo lavoro, Dove? qua a Besanella. Qua Come si chiama questa località? siamo Greben dei Prati. Greve dei Prai. Greben dei Prati. Ah, buonasera, sono Battisti Maurizio di Besanello, 80 anni. Sempre fatto il contadino, agricoltore, in una piccola cantina, perché mi dà l'uva e vendiamo il vino, tutto fuso. Ecco così. Senza bottiglie, diciamo, vendiamo, Tutto è una piccola fuso. nicchia perché oramai come cantine come noi che vendono il vino scuso ce ne sono È pochi, pochi pochissime. che vendono vino scuro, poi tutti fanno bottiglie in genere. È una piccola realtà, però la clientela apprezza molto questo vino perché è genuino, come lo Il fiume è un po' come una volta, dice insomma, il fiume, vi assomiglia a quello una volta. La stessa clientela che il vino di una volta. Com'era il vino di una volta? Serveva la bona, con i solfiti bassi, senza tante lavorazioni. Adesso noi filtriamo, gente, no? Lo vendiamo pulito, però una volta non lo beveva come che l'era, di chiarifica naturale, insomma, no? Anche se era leggermente velato, lo beveva lo stesso il vino, no? Adesso noi lo filtriamo, insomma, ecco, così, però gli assomiglia a quelli di una volta, come Perché le cantine, credo diceva. che le cantine sociali il vino è uguale tutti gli anni, colore, sapore. Invece noi il colore cambia da un anno all'altro in base all'uva che si conferisce dentro la nostra cantina. Il Anche il colore, il sapore, insomma, sapore ecco, sì, tutti gli è anni in non è base. uguale, insomma, E la ecco. gente questo lo apprezza. A noi interessa sapere come è cambiato il rapporto con la terra attraverso le generazioni. Allora, inizierei dicendo come hai imparato tu, Daniele, e come ha imparato Maurizio, da chi ha imparato? E poi che differenze ci sono, avete visto durante le generazioni, nel rapporto con la terra da coltivare? Io lavoravo prima in una fabbrica, ero fuori dal mondo contadino, a parte comunque facevo i turni, allora qualche volta quando c'era da aiutare, la mattina o pomeriggio restavo, andavo un po' in campagna, poi c'è stata la crisi del 2008 e così insomma, e tra una cosa e l'altra sono andato nel mondo della campagna, dell'agricoltura, perché c'era appunto da aiutare in campagna, in cantina, e c'era sempre più richiesta appunto del vino, c'era da fare in campagna, ecco. E lui come l'ha iniziato? Ma ho imparato da piccolo, ancora qua io ho 7-8 anni, sono sempre nella campagna. Siccome ero figlio unico, una volta si veniva con le bestie, era l'aratro, prima si veniva l'asem, dopo che era il cavallo, pian piano appariva già un trattore il cavallo. Tanti anni fa, quando ero popolo, parlente 70 anni fa. E ho sempre fatto il contadino, ma piaceva sempre perché mio nome voleva essere Erge Denaro a timbrare, di essere sottopatrone. Patrone sarebbe essere mio, anche se senza il patrone, tutte le regole che c'è, dopo il prima il tempo che è il patrone, manca i contadini, se te l'aiuta te lavori la metà, e se no te lavori al doppio e sega la metà. La gente se non aiuta il tempo, è così. E ho sempre imparato così. Anzi, una volta era tutto differente perché adesso se lascia l'erba nelle vigne, se sega l'erba, se taglia l'erba. E una volta era tu con la zappa, si passava con l'aratro, col piò, col vomere, e dopo tu con le zappe si zappava le vigne, no? E era un lavoro, adesso dai, si è migliorato quella cosa lì, lasciando tutto pra. Da qua a qua era così una volta, no? Una volta si teneva tutta la terra lavorata, però era tale lavoro che le dopareva le zappe una volta. Allora, che cosa sa guadagnà e che cosa sa perdù del rapporto con la terra tra le mamme? Beh, insomma, una volta era un altro lavoro, adesso dai, insomma, la terra si bonifica anche di più con l'erba, se masna sull'erba, le foglie, le sementi. E si fa anche humus, no? Si fa quei 2-3 centimetri di humus con l'ar degli anni e la terra se la arricchisce un po', invece di sudare a zappare e zappatorare, specialmente anche all'erba, quando fai un temporale, il bomber a tutto del piano, che qua fa un temporale porta via tutto, no? gli stacco, fa quei temporali, che se era tutto pulito così, non l'erte, quando ho creato solchi, canali, ti portava via tutta la terra, parlente l'erna. E chi com'è la terra? E come tipo, qualità? Beh, in base alle zone, come qua lungo Sì, l'Adige, è una bella terra. sabbiosa, sì, chi è sulla, lei è gerosa, sassosa, insomma, no? E la tua esperienza, Daniele? Eh? Beh, la mia esperienza appunto è tramite il papà Maurizio che mi ha insegnato come trattare le vigne della terra, come fare gli impianti e tutto quanto, senza teoria, soltanto pratica. E adesso fortunatamente abbiamo l'aiuto dei macchinari, tra i trattori di adesso agli scavatori per fare pali, piantare vigne così, alle stesse ligatrici elettriche che una volta che era alle Sono strope. andato con le strope una volta, era un lavoro, che noi, in 5 ettari di campagna, 2 in proprietà, 3 in affitto. E se dopo eri a 5 quintali di strope, tu fai i mazzetti l'inverno, curarle, dopo ligarle tutte, è un lavoro. Fortuna che c'è la macchinetta adesso, fortuna. Che risparmia quanto Oh, tempo? Perché mesi di lavoro. appunto una volta che era da prepararle le strope, da curarle, E fare i dopo mazzi, metterle in darle. acqua, le manche, le crepi, cioè la lentezza, il costo, perché una volta era anche un po' costoso, Anche a il costo, parità sì, perché compresi dei. anche adesso costa 200 euro il quintale, per dire che oltre più di 1000 euro sulle strope, per dire con la ligatrice con 300 euro di filtro te si liga tutto. E una marea di tempo meno. Che è qualcosa di meraviglioso nella terra? Com'è che lo intendi meraviglioso? Non la natura, il sole, l'aria, la pioggia. Beh, che comunque la terra. La terra è sempre oro perché nella terra vendete tutto. Usciamo cani di magra, te poi era sudovanese, Sì. mettere tutto patate, do fasoi, e zaldo, da sopravvivere, insomma, gli anni con gli anni La magri. terra dà sempre frutto, La praticamente. terra dà sempre frutto, insomma, No, ben qualunque roba, la terra non sta si può lì. vivere senza terra. Può essere che tu quel che se vuoi, ma. Noi produciamo, però ven pomi, ven cerise, ven persichi, ven tutto, ven patate, ven zaldo, Zaldo, come ven. fate quest'anno? Stanno in mezzo a un campo di zaldo, infatti un po' di farina naturale. Daniele Gabù Passionchi e la Karin fanno un po' di farina così per. Ecco, insomma. L'era sempre così il paesaggio o si è modificato negli anni? E se sì, da quanto tempo? Cioè, si è perduta la campagna o l'era stata come la vediamo adesso? Beh, lei calata perché ha fatto molto di case e fabbriche. 50 anni fa l'era tanta di più, gente, Specialmente ogni vicino casa, alle case. gente, tutta la Adesso. zona, fuorché dalla Cisa fuori, finco fuori, che in un altro paese, dalla Cisa della Posta Vecchia, gente, no? E così, dai, insomma. Adesso il problema è avere la campagna vicino alle case, che è giusto? Per l'erogazione, per quelle robe lì, gente, fortuna che noi da gent'anni lontana, che ne è poco vicino alle case e alle strade, perché che problemi di erogazione, quella per quello. Una volta, 50 anni fa, ad esempio, uva bianca che ne era pochissimo, qui il Chardonnay che era un po' di moscato da noi, ma Chardonnay, Pinot Grigio, Müller, quelle robe lì, che da noi non te potevi dire, non si sapeva quasi neanche sa che l'erano. Allora le uve nere, le stagioni erano anche più tardive, che non feci calori. Mi ricordo anche a me, quando ero a scuola, il primo ottobre scominciai la scuola, il primo ottobre scominciai le vendemmie, mi ricordo. Quella era la mia rabbia perché mi piaceva andare in vendemmia, no? E era così. E si arriveva tanti anni, verso i Santi, gli ultimi di ottobre, si arriveva. Era così. Allora, come si dice, adesso le stagioni si anticipano, fa più caldo. E dopo che il musso dei bianchi, è il musso di uva bianca adesso, Chardonnay, Grigio, Müller, tanta uva bianca, è moscato. Ecco, allora qui la madura prima, insomma, così. Cosa lasceremo alle nuove generazioni come cibo e territorio, no? Con quello che utilizziamo? Ci sono buone pratiche? Beh, dai, la terra appunto, come si diceva, insomma, la userà sempre nel futuro, la terra è sempre la terra, come si ripete, è lì che se, Magna, della terra, non di certo delle fabbriche o vabbè, comunque quelle ci vuole ugualmente, nel mondo d'oggi anche le macchine, per dire, il camion che viene a passare, insomma, il mondo d'oggi, le tecnologico anche, da una parte bene, sì, però dopo da un'altra parte no, cioè è un po' scenario del mondo un po'... Difficile, Sì, difficile. la tecnologia si sì, aiuta anche per i contadini, centraline, meteo, quant'altro, benissimo. Però a volte si pensa a un Arendrio Mare 20 anni fa che non aveva neanche il telefonino, tenevi fuori da casa e forse era bene che lì si viveva ugualmente, senza tanti pensieri. Una volta la gente si voleva più bene perché non aveva telefonini, non aveva neanche la televisione, un po' Cioè parlente si parlava di di più. tanti anni fa, si era più socievoli, sempre stava di più la roba, non so, si voleva un po' più bene la gente. Adesso è tutti chiusi, devi andare al supporto, tu dica il telefonino, dica il tablet, dica la televisione. Il rapporto col tempo le cambia, no? Il tempo, come modo di coltivare, il tempo è un fattore importante. Allora, adesso pare che tutti che abbia fretta, Nel mondo del cuore era così, non tutti sì. che pressa, tutti corre, tutti No, una corre, volta tutti si corre. fermava anche a campagna, mi ricordo. È vero. Adesso non è Chi si quasi. ferma ai quattro chiacchiere, che vedono una bozza di vino, mi fianca a due cantate. Adesso tutti che da correre, più macchinari che chiede, poi corre là dentro. Pare impossibile. Perché che da fare questo, che da fare quello, perché Perché, boh, dopo. grazie ai macchinari, appunto, si compra più campagna. Una volta, quant'è che ne aveva Dopo una campagna? volta se ne Che va tanta di era meno. un etero o due, quando Una volta che c'era. va 2 ettari, gente, no, allora che era anche più tempo, anche se voleva tanto tempo lavorarla, poi con le bestie, no, gente. Però si contenteva di quel che diceva e la Sì, gente i era più ritmi contenta, cambiavano. gente, perché io anche a me pensieri, per forza, non era tanto stress, tante robe, non era, gli mangiava quel che era, gli beveva lì, chi che non aveva beveva acqua, perché non aveva soldi, sti anni, parlente di 60-70 anni fa. Quando quegli anni erano magri, prima degli anni 60, la gente era così, allora. Adesso È tutto ancora, era uno magari che ha 7-8 ettari, che si vede anche a Besnel, tanti contadini, e bisogna che corra, perché anche se hai i macchinari, che mi stai chiamando a farle, perché tu non si fa con le macchine, no? Gente, il curare, il ligare le vigne, sfogliarle. dopo lì sta a sfogliarle, taccarzoli, garzù, quelli a tu misteri, dobbiamo fare con le mamme. Ma non è tanta Ecco. poesia, no? A fare il lavoro dei contadini. Bisogna Quello là, insomma. che il piace, a me mi ha sempre piaciuto da piccolo in su, come si dice, perché mi piace l'aria aperta, fuori al sole, insomma, non è il padrone, come dicevamo prima, padroni che ne manca noi, perché è il tempo il primo, e dopo tutta la burocrazia, tutte le carte che è, questi anni si era più liberi di quella roba lì. Comunque dai, le robe le che vuole. Bisogna andare a vedere il mondo, che è. Tornare dietro al mondo, insomma, è così, è così.